This is for posterity. Little do they know. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al nobile, al pienamente realizzato. Up until now, we've been talking about the process of vipassana. How to establish right awareness. Come stabilire la giusta consapevolezza. And to awaken this intelligence. E come risvegliare questa intelligenza. Satipanya. Satipanya. And we've been working mainly with the hindrances. Abbiamo lavorato principalmente con gli ostacoli, gli impedimenti. I'm hoping now, from this day onwards, that there are more and more little islands, islets of peace and joy. Io spero che da adesso in poi ci saranno sempre di più delle piccole isole di pace e di gioia. Magari. So now it's time to look at the positive side of the practice. Adesso è giunta l'ora di guardare l'aspetto positivo della pratica. And those virtues that we need to develop. E quelle virtù che dobbiamo sviluppare. These we call the seven factors of enlightenment. Queste noi chiamiamo i sette fattori dell'illuminazione. And I'm going later to try and join them with the five spiritual faculties. E cercherò poi più in là di unirli alle cinque facoltà spirituali. But before I begin the talk, I want to do a 5-10 minute practice in which